Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento un po' che potrebbe sembrare a prima vista un qualcosa così di artificiale, di artificioso. In realtà poi vedremo che non lo è. La cucina metropolitana. Che cosa intendiamo innanzitutto per questo? Intendiamo la cucina che si può fare all'interno di una città con i prodotti che si trovano dentro la città. Oppure può essere anche la cucina che si fa in una grande città con i prodotti dell'hinterland di una città, anche perché il famoso chilometro zero, tanto decantato, viene fissato a ben 120 chilometri da alcuni regolamenti regionali, quindi ce n'è di spazio per andare. Però vorremmo andare a vedere se appunto un cuoco, un bravo cuoco, andando ai mercati di una città, andando nei negozi, andando a scoprire dei prodotti nei negozi, può riuscire a fare un'ottima cucina, una buona cucina. Bene, di questo ne parleremo con alcuni chef e con alcuni esperti, e cominciamo da Davide Rampello. Davide Rampello è uno storico della cultura materiale, nonché direttore artistico di Expo 2015, quindi lui può benissimo così parlare di Milano. Buongiorno Davide. Buongiorno Davide, a te. Allora, ma può esistere una cucina metropolitana? Cioè Milano è in grado di così offrire i prodotti all'interno della città per fare una grande cucina? Assolutamente sì, ma poi trovo giustissimo quello che tu dici metropolitana, perché quando diciamo metropolitana intendiamo una città di riferimento. L'origine etimologica viene da mater, città madre, perciò città nutrice, città principale, città, e effettivamente una città come Milano o come città simili sono città dove convergono merci e dove convergono esperienze, perché anche le esperienze, gli incontri sono assolutamente stimolanti per una creatività, per un cuoco come per altri artigiani, ma soprattutto per un cuoco. E evidentemente il confluire in una metropoli come Milano di culture diverse portano evidentemente a materiali, spezie diverse, ortaggi diversi, porta a una molteplicità di esperienze, ed è un cuoco che vive dentro appunto a questa città, come potrebbe vivere a Parigi, a Londra, eccetera, è attratto sicuramente, se ne ha la capacità di vedere, è attratto, e da questo deriva e accoglie la sua creatività. Bene, grazie, rimani con noi. Numero verde 800 24 00 24 per chi volesse intervenire via telefono, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, abbiamo un altro Davide con noi, abbiamo Davide Di Corato, che è direttore del mensile Chef, uno che da 30 anni batte i ristoranti, direi batte il marciapiede, vero Davide? Sì, è vero, anche l'ho preso. E allora, diciamo, ma secondo te, come dicevo prima, un bravo cuoco, tu vivi a Milano ma giri continuamente, Roma, Torino, Firenze, Bologna, dove vuoi, cioè un bravo chef, diciamo, riesce dentro alla città visitando negozi, ma anche visitando negozi oggi etnici, perché sono molto importanti per una cucina melting pot, e poi ancora può andare ai mercati e quindi scoprire delle cose senza farsi spedire le cose o portare le cose da società magari anche di alta qualità che danno tutto pronto? Sono molto combattuto. Se devo dirlo dal punto di vista ambientalista, si può fare, si possono trovare prodotti interessanti, andare al mercato oggi, città come Milano, soprattutto se uno va a fare una cucina local, utilizzando prodotti provenienti un po' da ovunque, può fare delle cose molto interessanti. Dal punto di vista, diciamo, gourmettaro, se entro 120 chilometri, come dicevi prima, del chilometro zero, non esiste una realtà che riesce a fare, non so, un grande prosciutto o allevare un grande maialino, e sono obbligato, quindi rispettando il concetto, a mangiare un maialino cattivo, allora diventa un po' più problematico, preferisco andare magari in Spagna o da qualche altra parte e trovare un maialino che soddisfi più la mia esigenza. Dipende, cioè sono combattuto da questi due aspetti. Un dilemma. E tu Davide sei Rampello, perché sei combattuto anche tu da questo dilemma? No, francamente devo dire, siccome la ricerca è la ricerca per me della qualità, che vuol dire anche semplicità, eccetera, laddove io la trovo, insomma, il concetto di chilometro zero è una bellissima metafora per sviluppare evidentemente dentro di noi l'attenzione al risparmio delle cose, alla sostenibilità, ma non è certo una cosa che va tenuta in, diciamo, profondamente in, perché è veramente assurda. Noi dobbiamo sviluppare sicuramente una sensibilità rispetto a questa, alla sostenibilità, ma non possiamo veramente porre in questo caso un freno alla creatività e alla ricerca della qualità, questo sicuramente, certo, nei dovuti modi, è un equilibrio che dobbiamo cercare. Bene, io ricordo, numero verde 800 24 00 24, grazie a Davide Rampello. Davide Di Corato, volevo chiederti, ma con l'arrivo così di molta immigrazione, con l'arrivo di molte spezie e di prodotti per noi completamente nuovi, a cominciare dallo zenzero, non ti sembra che sia sempre più difficile fare una cucina, diciamo, a chilometro zero? Sempre più difficile fare una cucina a chilometro zero. Però se pensiamo alle patate e al pomodoro, che sono nella base della nostra cucina, secoli fa non c'erano, quindi anche lì adesso sono a chilometro zero, però secoli fa erano a qualche continente di distanza. Quindi tu dici che la cucina mediterranea, in realtà quella che viene così chiamata, è, diciamo, se andiamo a vedere indietro, è sicuramente una cucina a migliaia di chilometri. Leggiamo la storia d'Italia, l'Italia è un paese che è nato 100 europei anni fa. No, è un paese che fino a prima dell'Unità d'Italia, prima del 62, era diviso in comuni, fazioni, quindi ognuno parlava una lingua diversa, quindi già, ed erano cucine diverse. Basta ancora oggi vedere l'offerta gastronomica italiana. In Francia c'è stato Escoffier che secoli fa ha unificato la cucina francese perché è molto più semplice. Uno legge un Baffermantier che lo vada dal nord, a Pas-de-Calais o a Narbonne, viene fatto tutto in una stessa maniera. In Italia parliamo, non so, di ragù, pasta, spaghetti al ragù, già da quartiere a quartiere, ma anche da condominio a condominio cambia la ricetta, perché abbiamo tutti un background diverso storicamente. Eccoci di nuovo a parlare di cucina metropolitana. Ebbene, abbiamo detto prima che con questo termine possiamo intendere due cose: o una cucina fatta con, diciamo, alcune metropoli che nell'Interland possono riuscire ad approvvigionarsi di tutti i prodotti di cui hanno bisogno, oppure una cucina completamente fatta entro le mura di una città e quindi andando alla scoperta di prodotti che si possono trovare nei mercati, nei negozi, ma assolutamente che arrivano anche da fuori. Ma devo dire che nella storia gastronomica c'è sempre stata una dicotomia tra cucina urbana e cucina di città, e io voglio chiedere a questo così uno squarcio al professor Capati. Buongiorno professore. Buongiorno, ciao. Volevo chiederti, secondo te la cucina metropolitana, di cui si può parlare oggi di una cucina metropolitana erede di quella cucina urbana di un tempo? Bah, solo in parte, nel senso che esiste una concentrazione di abitanti e poi soprattutto una razionalizzazione dei servizi che in passato non c'erano. Oggigiorno al centro di una cucina metropolitana sta il supermercato. Quindi tu dici il supermercato oggi è diventato praticamente l'approvvigionamento del cuoco, e questo è il discorso che vuoi dire? Sui grandi numeri ovviamente, perché poi c'è chi trova delle alternative di approvvigionamento sia con il gas che con i piccoli mercati che andando fuori porta, ma il fatto che il supermercato oggigiorno sia connesso alla rete e che da casa uno faccia la spesa la dice lunga. Quindi tu dici ormai è rimasto ben poco da andare a scoprire. Rimani con noi comunque, Capatti. Sentiamo Simone da Milano, radioascoltatore. Sì, buongiorno, saluti a tutti. Intervenivo sul tema sicuramente dell'approvvigionamento locale, che è un tema che mi sta abbastanza a cuore. Sento che state intervistando due persone che hanno fatto del proprio business la gastronomia, quindi è logico che secondo me un po' di parte, quello di trovare l'eccellenza nel maialino dalla Spagna, sentivo dire, lo preferiscono. E io credo che si possa comunque improvvisare o creare, anzi l'improvvisazione e lo scoprire il prodotto locale, probabilmente non ci sarà maialino, ci sarà qualche altro prodotto che può essere proposto in un ristorante, mantenendo comunque una sorta di valore sul territorio, di riscoperta del territorio. Io personalmente faccio parte di un gruppo d'acquisto, ordino da casa tramite internet, certo non trovo tutto nel momento in cui ordino, quindi magari devo approvvigionarmi in 2 o 3 volte, è un impegno che mal si confà con i tempi stretti del giorno d'oggi, ma il prodotto è fresco, tengo una realtà locale, taglio una filiera che di certo non fa arricchire né il consumatore né il produttore, e mantengo al contempo un'esigenza etica. Inoltre avere i prodotti freschi di stagione è anche molto interessante, perché dà la possibilità di impegnarsi anche a utilizzare il prodotto con fantasia, quindi a casa mia da quando è iniziato il consumo locale mangio in modo molto più divertente e molto diverso. Bene, grazie a Simone da Milano. Devo dire che ieri ero in un supermercato per comprare una bottiglia di latte e avevo un signore vicino che a un certo punto ha esclamato: ma non è possibile, anche l'aglio che arriva dall'Argentina. Ecco, dico, questa è stata una battuta molto, molto interessante. Anch'io non avrei mai pensato che anche l'aglio arriva da fuori, cioè dalla Cina lo sapevo, ma anche dall'Argentina ora, quindi più paesi. Bene, continuiamo. Il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Abbiamo con noi Fabio Picchi del Cibreo di Firenze, che sicuramente fa una cucina molto molto molto fiorentina, e a lui voglio chiedere: ma Fabio, è possibile che tu ti possa approvvigionare nella città di Firenze di tutti i prodotti di cui hai bisogno? Sì, o quasi, viva Dio, abbiamo un mercato generale che si apre a tutta la regione, che è un po' benedetta da Dio, nel senso si va dal Casentino alla Betone alla Garfagnana fin giù ai nostri mari, che non sono niente male, per non parlare delle verdure o dei pomodori della Bassa e Alta Maremma, insomma una sorta di miracolo è la Toscana, ma proprio per struttura sociale, per capacità di questi pazzi che coltivano, allevano, raccolgano, alle volte penso ai funghi, alle castagne del Casentino e via avanti così. Però Davide, se tu mi permetti, prego. attenzione, perché è vero che l'aglio dell'argentino puzza, perché diciamo la verità, puzza, ma non perché è argentino, perché ci sono degli italiani che sono andati lì a coltivarlo in territori sconfinati per farci sopra un facile, la parola business non la uso mai perché mi è straniera, mercato di delle proprie avidità, tanta acqua, molti fiumi, pampas sconfinata e aglio giganteschi che però, torno a dire, facili da sbucciare ma puzzano. Torniamo quindi giustamente sulla filiera corta, senza alcun dubbio, dell'aglio rosso italiano piccolo e profumato, se ne consuma meno ed è molto molto più buono in cucina. Però non dimentichiamoci mai il buon senso, perché il pepe comunque viene da molto lontano. Anche il sale. Anche il sale, bravo, capito? Per cui attenzione agli eccessi, perché sono poi improbabili, improponibili. Per loro natura le idee, come la cucina si muove, circola, come le persone, e devono trovare cittadinanza sempre e comunque, cittadini dove si nasce come minimo obiettivo, ma cittadini sempre comunque dove si è. Io adesso giro per mercati e trovo facilmente il ginger, trovo facilmente germogli di soia, trovo finalmente delle varianti di cumino portate dalla migrazione nordafricana che prima non trovavo, e di questo non posso essere altro che felice. Per cui variare una mia farinata con un mio minestrone, con un tocco di Nordafrica, con un tocco di cumino, mi piace, mi entusiasma, mi fa sentire che partecipo a un movimento, torno a dire, di idee e di persone, oltre che di merci. Bene, rimani con noi Fabio. Professor Capatti, diciamo il flusso di immigrazione sempre più importante anche per il nostro paese, specialmente nelle metropoli, porta sempre di più, ovviamente, questo è un fatto storico, a contaminazioni delle cucine. Non pensa che appunto questo fenomeno farà in modo tale che sempre di più ci sarà bisogno appunto di prodotti sempre nuovi che arrivano sempre da più lontano? diciamo che un prodotto viaggia comunque molto più veloce che la capacità dell'individuo di acquisire una cultura per valutarlo. Quindi ci si trova di fronte a un sistema disproporzionato, nel senso che il prodotto arriva, ma le mie capacità di selezionare una specie indiana rimangono nettamente inferiori alla sua velocità di offrirsi nel mercato. E questo è il problema. Il problema è anche un problema di culture nei confronti del cibo etnico, che rendono complessa la vicenda. Ecco, ma il caso dello zenzero ormai, diciamo, è diventato comune come un prodotto italiano, lo si trova un po' ovunque, in quasi tutti gli ortofrutta, lo si trova diciamo ormai contaminato in moltissimi piatti anche di tradizione italiana, quindi credo che sarà un fenomeno nei prossimi anni di grandissima portata. Ma sentiamo Andrea da Urbino. Buongiorno Andrea. Buongiorno, come sta? Senta, ci siamo sentiti alcuni anni fa in una, per me poco simpatica, prodromica al fallimento, polemica che lei, le sono grato ancora, aveva innescato sulla questione del latte crudo, delle vendite dei pochi agricoltori che tentavano di sopravvivere facendo i vaccari, vendendosi il proprio latte sui distributori automatici, si ricorderà probabilmente. Sì, mi ricordo bene, sì. Qualche anno fa, e ci fu, mi ricordo bene, l'allora presidente della centrale del latte di Firenze che diceva attenzione, se il latte non si può bere perché poi bisogna bollirlo, eccetera eccetera. Allora io volevo dire, anche se c'entra poco, ma un po' c'entra col tema di oggi, che questa nostra, io sono stato uno dei primissimi in Italia 6 anni fa, ero arrivato anche a dei buoni risultati, poi la grande industria ha pensato bene di farci, di scatenarci contro una campagna diffamatoria molto violenta, di cui forse lei si ricorderà, ma probabilmente anche gli ascoltatori si ricorderanno, e la questione si è risolta molto presto, perché poi tra ordinanze del Ministero che ci obbligavano a mettere cartelli che dicevano di bollire, che è obbligatorio bollire il latte, e via dicendo, questa cosa si è finita. Per quello che mi riguarda, ho venduto le vacche, il latte non c'è più, e faccio l'agricoltore e basta. Io volevo dire però che tutte queste cose molto belle che si dicono sulle filiere corte, se poi non hanno veramente un po', adesso certamente rispetto al passato ci sono i gas, ci sono un po' di consumatori che hanno una sensibilità che in passato non c'era, ma è totalmente insufficiente, perché gli agricoltori per bene, io mi metterei tra quelli, insomma, possono avere qualche speranza. Io ho 52 anni, non è che ho proprio tutta la vita davanti dal punto di vista imprenditoriale, perché noi possiamo intraprendere e fare un patto con i consumatori. Ci vuole anche un pochino più di coraggio da parte dei ristoratori, da parte di chi, dei cuochi, degli chef, perché poi in fondo, come lei diceva prima, è molto comodo andare a questi supermercati o aziende che ti arrivano 2 volte alla settimana, ti portano la carne irlandese sotto vuoto. Io mi sono sentito dire da un ristoratore di Urbino, di cui preferisco non fare il nome, che ha rilevato un ristorante importante, molto molto sciccoso e anche molto attento al territorio, che da noi effettivamente è veramente straordinario. L'Alcemero è Urbino, voglio dire, forse tutti lo conoscono, sì. Insomma, è nato qua. Chiudiamo, chiudiamo, no? Andrea, andiamo al succo. Pronto. Questo, se io vado in un ristorante e mi trovo a Urbino e mi trovo una tagliata fatta, poi perché me l'ha dovuto dire, perché gliel'ho chiesto brutto muso, che veniva dall'Irlanda, perché la filiera per lui era più comoda, testuali parole, queste erano le parole, la filiera per lui era più comoda, e io ho mangiato a Urbino, dove c'è la patria della marchigiana dell'Appennino, bene, biologica o no, la carne irlandese, e se di fronte a scempi, certo, come questi la gente non si ribella, beh, poi dopo non ci lamentiamo se mangiamo il grano ucraino radioattivo. Grazie Andrea, lei ha lanciato un sasso in piccionaia. Abbiamo uno chef, abbiamo Fabio Picchi, sentiamo lui cosa ne pensa. Ma sono assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento. Alcune notizie, anche per lui. Il presidente della centrale del latte di Firenze è cambiato comunque. Sì, è vero, lo volevo dire io, sì. E per cui, come vedi, sono sparite le tue mucche, ma è sparito anche il vecchio presidente. E che ti devo dire? Sono assolutamente d'accordo con questa banalizzazione. Guarda, sto facendo dei passi in un luogo che io amo molto, l'Isola d'Elba, trovare, non so, una grigliata di sarde o un polpo lesso sta cominciando a diventare difficile. Ieri mi sono commosso davanti a uno spaghetto con un polpo fatto da una signora a Topineti nella spiaggia, la sottolineo perché mi è passato un miracolo, perché ormai è arrivato, non diciamo il nome, ma la solita ditta che ormai sta imperversando in tutta Italia, che fornisce pacchetti già completi di surgelati e di cibi cosiddetti rigenerati. Lo considero un degrado culturale pericolosissimo, va bene, usciremo fuori come siamo sempre usciti fuori da tutto, ritorneranno le cose vere. Un'ultima notizia e poi mi chiedo, David, sì. È vero che i ristoratori si devono muovere con attenzione rispetto ai prodotti locali, c'è chi lo fa, io lo faccio, mi ci diverto, è uno dei momenti più divertenti della mia settimana, andare per mercati, tu lo sai, alle 5 di mattina. E chi non lo fa, vabbè, a far suo, il cliente è sempre ogni giorno più attento, non è soltanto il cliente italiano, io vivo anche di turismo, c'è un'attenzione da parte dei popoli emergenti come l'India, come la Cina, al biologico, al prodotto vero, che voi non avete conto, non parliamo poi degli americani che a questo punto spesso ne sanno più di noi, quindi noi viviamo alle volte con delle nostre illusioni. Ma al di là dei ristoratori, guarda, scusami, io sono un amante delle piccole botteghe, tu lo sai, per me il piccolo commercio rionale è un evento di socialità importante, ma bisogna strappare però una lancia per quel che sta capitando sempre nella mia città, a Firenze, cioè un nuovo magazzino del gusto, un nuovo grande magazzino del gusto fatto dalla Coop, che non fa la mangia aziende e va a ricercare piccoli produttori con piccole produzioni e le mette in vendita nel supermercato a prezzi correttissimi. Questo favorisce quindi il cliente con questo, con la ricerca che loro fanno sul territorio, ma più che altro favorisce il territorio di rimanere se stesso con le proprie cipolle, le proprie patate, i propri spinaci, le proprie piccole micro coltivazioni. Ora ti tolgo la parola. Grazie Fabio, grazie al professor Capatti. Eccoci di nuovo a parlare di cucina metropolitana, nel senso che può esistere una cucina fatta in città con i prodotti trovati in città senza, diciamo, che prodotti siano acquistati da fuori e quindi arrivino o per via internet o per altri mezzi. Quindi una cucina che si svolge tutto all'interno delle mura, quindi attraverso i negozi, attraverso i mercati. È possibile, è sempre più possibile, visto che c'è una contaminazione con anche molte merci che arrivano dal mondo, con il fatto di un'immigrazione sempre più veloce. E lo chiedo, come ho chiesto ad altri nostri interlocutori, a un grande esperto che è Marco Bolasco, oggi direttore editoriale di Slow Food, ma un tempo e anche oggi grande girovago di ristoranti in giro per l'Italia. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Tu che idea hai su questo? Ovviamente la domanda è complicata. Penso che però il vero punto sia cercare non tanto l'estremizzazione, radicalizzando un po' l'idea del chilometro zero, quindi della prossimità, che non sempre in un contesto urbano è così possibile, anche se stiamo vedendo la rinascita all'interno delle nostre città di zone, di spazi, di cascine interne alla città o di orti che producono, ma è chiaro che non potranno mai produrre quanto è il fabbisogno di quella città. Allora io credo che il mix sia un mix di cose diverse che è fatto soprattutto di valori. Cioè io penso che bisogna applicare dei valori, in fondo quando noi parliamo di prodotto tipico e di prodotto locale è come se avessimo sintetizzato una serie di cose che ci piacciono, che condividiamo, che riteniamo sostenibili o, per utilizzare l'espressione più slow food, buone, pulite e giuste. Beh, questi valori forse li possiamo qualche volta applicare anche a qualche prodotto che arriva magari non proprio da dietro l'angolo, ma deve percorrere qualche chilometro, però rispetta quei valori. Allora l'aspetto culturale, che poi diventa determinante anche dal punto di vista economico quando un prodotto vale e quindi sostiene anche una piccola economia, credo che sia quello che dobbiamo cercare di più nella nostra cucina urbana. E oggi in alcuni negozi, in alcuni ristoranti lo troviamo. Ripeto, numero verde 800 24 00 24, chi volesse intervenire, sms 349 238 6666. Bene, abbiamo con noi un giovanissimo chef milanese, cioè da poco a Milano, Gabriele Fagionato del ristorante Amaltea, il quale ha portato questo tipo di filosofia, di cercare all'interno della città di Milano, dove lui è arrivato, la ricerca dei prodotti, quindi mercati, piccoli negozi anche etnici. E chiedo a lui se dopo un paio di mesi appunto di questa sua sperimentazione è convinto che questo si possa fare. Buongiorno Gabriele. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Allora, io credo che si possa fare. È una cosa possibile a Milano, intendo, comunque è una grande città piena di gente che viene, di varie culture che si mischiano, e sì, è una cosa che a me diverte fare, anche oltre che sia un lavoro, nel senso. Tu arrivi da Parigi e quindi diciamo che Parigi probabilmente offre molto di più, diciamo, all'interno delle mura a Parigi, come mercati, come negozi ed altro, rispetto a Milano. Sì, questo sì, è una città molto più evoluta, diciamo, in questo punto di vista. Ecco, sì, ma comunque qui a Milano queste cose ci sono, bisogna solo scoprirle, nel senso, bisogna girare, essere appassionati di questa cosa, cercarle, le cose. Ecco, quale carenza hai trovato tu a Milano tra i vari prodotti? C'è qualche prodotto, non lo so, carne, pesce o d'altro che, diciamo, c'è carenza? Oppure, diciamo, c'è abbondanza di tutto? A Milano, diciamo che c'è abbondanza di tutto, si trova tutto, nel senso. Poi bisogna essere bravi a trovare le cose buone, nel senso. Quindi si trova tutto. Ma tu, ho visto che fai dei piatti che sicuramente rischi, cioè qualche volta compensi, nel senso che non facendo piatti tradizionali compensi anche con, come posso dire, con prodotti che non sono prettamente italiani ma arrivano dall'estero. Quindi diciamo che stai facendo una cucina molto contaminata per poter fare una cucina metropolitana. Esatto, cerchiamo di abbinare le cose che troviamo alle cose che troviamo, quelle del chilometro zero, tra virgolette. E appunto parlava prima Marco Bolasco di Cascine, stava parlando di appunto zone limitrofe a Milano, e di Cascine a Milano ne stanno risorgendo, e sembra che ci sia così anche una ripresa di quello che era l'agricoltura abbandonata. E tu lo trovi che ci siano dei prodotti interessanti che stanno arrivando appunto da queste Cascine e dalle zone limitrofe a Milano? Sì, credo di sì, ci sono delle cascine che producono, noi ci forniamo ad esempio di farine, uova, riso, che vengono dai dintorni di Milano, sono cascine che lavorano bene, sono biologiche, cose così, e ci sono anche degli allevamenti di animali, bestiame che... Quindi può essere diciamo sufficiente per fare una cucina cosiddetta metropolitana. Torno a Marco Bolasco. Marco, volevo chiederti, cioè, stiamo andando verso un futuro che è sempre più contaminazione, specialmente anche nei cibi e soprattutto anche nelle materie prime che arrivano, negli ingredienti. Tu pensi che arrivando, diciamo, appunto spezie, arrivando nuovi prodotti che sono sconosciuti alla nostra cultura, si possa mettere così, come posso dire, in gioco la tradizione italiana? Ma io penso che la tradizione italiana si deve difendere dalla cattiva tradizione italiana, nel senso che oggi ciò che mette più a rischio l'identità dei nostri prodotti, dei nostri piatti, sono le prese in giro, le caricature di questi prodotti, di questi piatti, che ai noi sono fatte in tanti ristoranti che predicano di fare tradizione e territorio ma non lo fanno. Viva quegli eroi che riescono invece ancora oggi a fare le cose in maniera sacrosanta, e io credo osserviamo con rispetto anche quello che arriva da fuori, perché la cucina è figlia di un contesto, la cucina è espressione sociale, culturale, economica, e quindi laddove, come abbiamo visto storicamente anche in altri paesi, ci sono degli arrivi da fuori, è inevitabile che queste cose si mescolino. Io cito sempre una bella episodio che si racconta nella storia, diciamo, della didattica per l'educazione al gusto ai bambini di Slow Food, in cui un bambino di, mi pare, Emiliano, raccontava come a casa sua, evidentemente figlio di immigrati dal Medio Oriente, il piatto tipico di sua mamma fosse uno strato di tortellini, uno strato di couscous. Ecco, questo credo che non metta niente a rischio, sia semplicemente l'espressione di quello che sta avvenendo nel mondo. Fagionato, volevo chiederti, c'è un piatto in particolare che tu sei riuscito a creare, diciamo, proprio girando per negozi e mercati a Milano? Sì, sì, ce ne sono svariati, diciamo, perché cerco di abbinare sempre i nuovi prodotti che trovo, nel senso, comunque piatti legati un po' alla tradizione, un po' così. Ci abbiamo il risotto alla milanese con curcuma e tamarindo fresco, che sembra che piaccia, una cosa. Quindi è una reinvenzione, diciamo, del risotto alla milanese, fatto appunto con ingredienti che sono anche, che arrivano da fuori. Bene, grazie a Gabriele Fagionato e grazie a Marco Bolasco per essere intervenuti. Bene, continuiamo a parlare appunto di questo argomento, che sicuramente non è un argomento facile, forse verrà capito fra qualche anno probabilmente. Sentiamo Gaspare da Lucca, un radioascoltatore. Buongiorno Gaspare. Buongiorno. Volevo dire che io sono d'accordo sui prodotti del luogo, ma non si può impedire che arrivi la concorrenza da fuori, perché questo è indispensabile per migliorare la qualità del prodotto. Non è detto che il prodotto locale sia sempre migliore. In Italia si mangia tanto bene ora perché siamo stati invasi da tutto e da tutti e abbiamo imparato a fare le cose che prima non facevamo in Italia, le facevano solo fuori. La carne è buona sia l'angus sia la chianina, però la chianina deve essere macellata bene, deve essere frollata bene e deve essere cucinata bene. Se la chianina, se è il cliente che deve scegliere il posto, perché in quel posto si mangia una chianina che è veramente buona, perché sì, c'è anche la chianina che non è buona. Chiarissimo il suo discorso, Gaspare. Il problema che abbiamo affrontato è anche quello non solo di prodotti del luogo, ma di prodotti che sono già nel luogo, perché quando parliamo di cucina metropolitana, sicuramente a Milano il pesce non può essere del luogo. Comunque grazie a Gaspare da Lucca. E ora abbiamo con noi un rappresentante di Roma, quindi chiederemo a lui, ad Alessandro Roscioli della Salumeria Roscioli con Cucina. Ecco, questo è un fatto molto importante, sono quei posti che io chiamo dietro al banco. E Alessandro, voglio chiedere, Alessandro, ma si riesce a Roma senza far arrivare, diciamo, direttamente dei prodotti da fuori con i mercati, i negozi, di poter fare un'ottima cucina? Buongiorno Davide. Buongiorno. Diciamo che la cosa è abbastanza macchinosa, perché la regione in cui vivo e dove lavoro, che è il Lazio, insomma, non ha una grande tradizione. Poi diciamo che subito dopo guerra, soprattutto nella zona in cui viviamo a Roma, il piano urbanistico, insomma, ha ucciso del tutto quegli ampi spazi verdi dove si poteva magari in qualche modo cercare di recuperare delle materie prime all'altezza. Ti faccio forse il caso più emblematico. Noi nella nostra salumeria cuciniamo per tradizione la matriciana va fatta, oltre che con un grande guanciale, con un grande pecorino. È luogo comune che comunque nell'immaginario collettivo il 90% dei nostri clienti pensano che il pecorino romano derivi dalle campagne romane, ma così non è, perché come tu ben sai, purtroppo ormai il consorzio del pecorino romano è tutto, certo. Tutta la produzione è quasi tutta esclusivamente sarda e parte della bassa Maremma. Per me, io uso veramente un pecorino romano che è fatto nelle campagne dei pascenti, però è veramente complicato. Almeno per 2-3 mesi l'anno rimango completamente senza pecorino e devo usufruire di quello sardo, non che sia meno buono, però ha caratteristiche diverse, perciò insomma un po' di difficoltà c'è. Diciamo che con l'avvento anche ultimamente noi vicino a Roma abbiamo avuto il cambiamento dei mercati generali, ecco, che è un polo molto più grande dove comunque la reperibilità della merce è diversa, ci sono anche molti prodotti di che tra virgolette chiamano di farmhouse, insomma prodotti un po' dell'eccellenza, che abbiano un trattamento biologico più curato. E poi comunque c'è anche un quartiere adesso che a Roma, che è quello di Piazza Vittorio, dove ci sono moltissimi, ma veramente moltissimi negozi etnici, dove puoi trovare dalla spezia più ricercata anche alla verdura diciamo quasi fresca, che venga da qualsiasi parte del mondo. Bene, grazie Alessandro, rimani con noi. Abbiamo anche Davide Oldani del ristorante Do di Cornaredo, provincia di Milano. Ebbene, lui dall'inizio, quando ha aperto questo ristorante, ha sempre detto: cioè, tutti i miei prodotti sono localmente, quindi il mio macellaio di fiducia del mio paese ed altro. Ecco, chiedo se è veramente difficile poter fare una cucina metropolitana, Davide. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Davide. Ma per quello che mi riguarda no, perché seguendo le stagioni, avendo una guida ben precisa che sono quelle che sono le stagioni, il territorio mi ha determinati prodotti in base alla stagione, io mi adeguo a lei e non faccio adeguare la stagione a me. Poi per mia curiosità, perché ho viaggiato, perché ho lavorato in tante parti del mondo, è logico che anch'io segua un po' il global food. Quello che io intendo per global food sono dei prodotti tipo spezie, tipo erbe, tipo magari anche qualche verdura, tipo qualche tubero, che io sto piano piano assaggiando e inserendo ogni tanto nella carta del mio ristorante, proprio per dare un po' di particolarità. Detto questo, la cucina che io credo sia migliore, che credo sia un po' alla base di tutto quello che dovrebbero fare i ristoranti, è proprio seguire la stagione, cioè seguire prevalentemente il prodotto del territorio, che è poi quello che fa la differenza. Io mi ricordo 25 anni fa, quando iniziavo da Marchesi, c'era il primo zenzero fresco che veniva fatto, Marchesi utilizzava presa viola aperto. Quindi questo per dire che non è cambiato di molto, è che adesso dovremmo solo ponderare un po' di più i prodotti da utilizzare. E poi sicuramente c'è possibilità, nel caso si volesse usare dei prodotti importati, di averli più freschi, perché con i trasporti, con i mezzi che ci sono ora, insomma, il prodotto è più garantito. Beh, ci hai rivelato un segreto, che nel raviolo aperto, questo straordinario piatto che in tanti hanno copiato in giro per l'Italia, c'era lo zenzero. Forse molti non sono riusciti a farlo non sapendo questo particolare. Ma torno ad Alessandro, voglio chiedere Alessandro, i mercati stanno cambiando a Roma, sia quello della carne che quello della frutta, della verdura. Un tempo erano molto importanti, c'era molta scelta. Oggi c'è un grande cambiamento in corso. Mi dicono comunque che anche il mercato della frutta e verdura ritornerà ad antico splendore. Ecco, ma sono veramente ancora molto importanti i mercati a Roma, anche quelli rionali? Sì, hanno forse, diciamo che è una delle ultime forme di attaccamento veramente al quartiere, perché abbiamo al contrario dei mercati rionali, che sono stati aperti anche dai grandi centri commerciali, perciò c'è molta dispersione d'utenza, e i mercati rionali sono e saranno veramente il collante anche l'insieme delle culture, perché ad esempio noi che siamo vicino al Campo dei Fiori, ci sono nel mercato rionale, nel nostro quartiere, ci sono dei banchi dove vendono spezie, dove vendono frutte che vengono, non sono sicuramente di derivazione italiana, perciò c'è anche un'integrazione all'interno del mercato rionale. Sì, questo è un fatto veramente importante. Davide, tu hai vissuto, cioè hai avuto un ristorante, appunto, hai iniziato a Milano in due ristoranti. Voglio chiederti, girando per mercati, cioè girando a mercati a Milano, ma credo che ogni tanto tornerai ancora, ci sono dei mercati, alcuni coperti comunali, dove si trova grandissima qualità, ad esempio il pesce. Tu cosa ne pensi? Ma assolutamente, perché io poi ho preso parte a questa iniziativa nel valorizzare ancora i mercati comunali, rionali, che ci sono in centro a Milano, ed è una bellissima cosa, perché questi sono quelli che avvicinano di più la gente al buon cibo e al buon prodotto, quindi al benessere. E per quello che mi riguarda invece, nella parte più gestionale del ristorante, credo che ci debba essere un tredicesimo uomo, che è il collaboratore esterno, quello che io chiamo, che è il fornitore, al quale bisogna dar fiducia e sapere che se lui è motivato, perché è motivato da parte nostra per consigliare o chiedere consigli a lui per i prodotti che trova sul mercato, sia la cosa migliore per avere il prodotto fresco al ristorante. Infatti i miei fornitori, è vero che sono di Cornaredo, di Corbetta, di Settimo Milanese, quello della frutta e la verdura, però prevalentemente sono loro che alle 4 del mattino vanno in mercato e sotto nostro suggerimento, perché conosciamo la qualità della materia prima, ci portano la materia prima fresca e buona. Bene, grazie ad Alessandro Roscioli e Davide Oldani. Ebbene, no, abbiamo potuto parlare, visto anche il tempo che abbiamo sempre meno, dei vari mercati, specialmente a Palermo e a Catania, dove ci sono due mercati davvero straordinari. E io vi do appuntamento domenica alle 11.15 con il Riposo del Guerriero, ma anche alle 18, perché questa trasmissione verrà data in replica integrale alle ore 18 di domani. E poi ogni giorno dal lunedì al venerdì con la pillola, quindi alle 11.05 e alle 23.05. Vi auguro buona spesa quindi ai mercati, andate alla ricerca di quei prodotti che sicuramente sono eccellenti, si trovano anche nelle grandi metropoli ma anche nei piccoli centri dove magari ci sono dei mercati, ci sono anche i mercati dei contadini. Un caro saluto da Davide Paolini. Il gastronauta.